si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te Carlo, come va? Sei in collegamento? Funziona tutto oggi? Buongiorno, sì, pare che funzioni tutto, sono in collegamento, buon ascolto. Ciao Laura e ciao a tutti i nostri ascoltatori del sabato. Ascoltatori del sabato che come sempre possono partecipare alla trasmissione, come sempre attraverso gli sms al 349-238-6666, sms e whatsapp, ma possono anche chiamare il famoso numero verde di Radio 24 che è sempre lo stesso, così è facile per tutti, 800 24 00 24, ed oggi concorrere per il nostro quiz, portarsi a casa un libricino da leggere sotto l'ombrellone oppure in montagna, chissà dove volete andare, anche in città sulle panchine, no, noi non ci offendiamo, dove lo leggono va sempre bene. È un libro portatile, diciamo, un po' come è insito in tutti i libri, quindi lo potete portare dove volete. Il quiz, come sapete, è una notizia con tre possibili risvolti, voi dovete indovinare quale è quella giusta. E potete chiamare ovviamente fin da questo momento, perché siamo già tutti pronti a raccogliere le vostre telefonate. Oh, ma nel frattempo noi vorremmo scambiare con voi qualche buona notizia, se volete potete scrivercene. Io ne ho trovata una su Sole 24 Ore che voglio riprendere in futuro, anche perché noi oggi parleremo poi di vigneti storici ed eroici. Questa è, così allargando un po' lo sguardo, è qualcosa che riguarda il tema coltivazioni e agricoltura, perché ho scoperto, sai Carlo, che l'Italia è ben posizionata per quel che riguarda i fertilizzanti senza chimica. Non lo sapevo, insomma questo è un periodo in cui siamo un pochino più attenti a queste questioni. Fortunatamente ci sono i grandi colossi dell'agrochimica che tra l'altro ultimamente hanno dovuto fare qualche passettino indietro, penso ad esempio al glifosato. Ci sono però delle piccole realtà italiane che invece fanno della nutrizione innovativa, così si chiama, così leggo da Alessio Romeo sulle Sole 24 Ore di oggi, il loro campo di azione. Pare siano molto forti e sono in grande crescita, e si tratta di cose destinate all'agricoltura biologica, quindi insomma ci fa piacere avere questa eccellenza e speriamo che continui a crescere. Un'ottima notizia, direi. E tu invece che notizia mi porti di questa settimana? Cosa ti ha colpito? Cosa hai trovato di buono in giro? Guarda, l'altro ieri sera... Ho sentito questa esitazione, ho detto... assegnato... Come? Ho sentito questa esitazione e mi sono detta non ha trovato niente di buono in giro, non c'è niente di buono in giro. No, non è assolutamente così. No, l'altro ieri appunto, che poi era notte, guardavo la televisione ed è stato assegnato il premio Strega, che volenti o nolenti è il più importante premio letterario italiano, soprattutto per quanto riguarda le vendite. La serata è andata in onda in diretta su Rai 3, in seconda serata, con 320.000 spettatori di media, ma va detto che un premio letterario ha poco di televisivo, a meno che non decidi di confezionare una serata ad hoc tenendo presente il mezzo di comunicazione che hai scelto. Gli scrittori della sestina finale vengono tutti intervistati dal conduttore Zanchini. Alla fine dell'intervista a Valeria Parrella, in gara col libro Almarina, il conduttore la ringrazia e nell'accomiatarla dice: adesso parleremo di Me Too, che lei conosce bene, ma lo faremo con Corrado Augias. La Parrella si sincera di aver compreso bene e poi esclama: auguri. Se invece dello Strega fossero stati gli Oscar, la faccia che la Parrella fa prima di riuscire a sintetizzare il proprio stupore, e forse anche qualcosa di più di stupore, in quel candido auguri, sarebbe valsa certamente la nomination. Sui social che cosa succede? Esplode l'accusa di mansplaining, ovvero, come traduce bene Michela Murgia, il minchiarimento, che è quel frangente in cui un uomo spiega qualcosa di cui non sa niente a una donna che invece la sa benissimo. Augias in diretta si difende dicendo: adesso due uomini non possono neanche più parlare dei problemi delle donne? E la polemica appunto continua sui social. Volevo dire che io credo che la questione sia un'altra, non è se puoi parlare di Me Too, certo che due uomini possono farlo, anzi mi verrebbe da dire che siamo per fortuna costretti a farlo, grazie alle donne che hanno avuto il coraggio di interrogare l'umanità. La questione è un'altra: se hai la fortuna di avere lì presente una donna che è anche una scrittrice, attrice, che è pure l'unica donna fra i sei finalisti del premio Strega, e sei alla serata conclusiva proprio del premio Strega, in diretta, e hai deciso che vuoi parlare di Me Too, non sarebbe il caso di farlo assieme a lei? Coinvolgerla? Approfittare della sua intelligenza? Conoscenza del problema da un punto differente e, mi permetto di dire, privilegiato? È come se avessi in studio Andy Warhol, Frida Kahlo, Caravaggio e Michelangelo e li saluti tutti e quattro per dire: e adesso parliamo di arte con Vittorio Sgarbi. Chiudo confessando che per rivedere il video della premiazione dello Strega e risentire le esatte parole, ho digitato su Google Parrella Strega. E poi mi sono sentito in colpa per l'insulto. E poi mi sono detto anche che sentirsi in colpa per questa casualità comica è molto stupido. Questo per dire che abbiamo bisogno che voi donne ci spieghiate bene questa questione, perché noi uomini siamo parecchio confusi. Carlo, quando vuoi io sono pronta. E io non vedo l'ora, ci mancherebbe altro. Dai, organizziamo un bel confrontino prossimamente. Magari riesci a tornare un'altra volta nello studio, facciamo un buco nel muro. Come l'altro giorno, quando sei potuto finalmente rientrare. Ho la sensazione che ci sono tante persone che hanno più bisogno di me, diciamo, che gli venga spiegata questa questione. Probabilmente, però io sono assolutamente sì, a disposizione. Probabilmente sì, dai, proviamoci, adesso ci organizziamo, cerchiamo di farlo. Senti, però purtroppo non possiamo farlo subito, ma per fortuna, adesso mi cespico anch'io come quello là, mi perdo come Zanchini. E, no, volevo dire che non riusciamo adesso a riprendere. Che ha detto che ha anche chiesto scusa Zanchini. No, gli è venuta male. Come sala che dice esatto. Andiamo a lavorare, come se la gente non avesse lavorato. Forse era meglio dire torniamo negli uffici. Ecco, però sono quelle cose che vengono fuori male quando l'hai detta e tornare indietro è piuttosto difficile. Ormai la figura l'hai anche fatta. Anche se spesso ne viene fuori il vero pensiero, questo va detto, sì, non per il povero Zanchini. Devo dire anche Augias non è venuto fuori benissimo, comunque con questa, no, che lei, non possiamo parlarne. Certo che ne puoi parlare, magari anche con... Non solo voi due. Carlo da Pavia però non ha chiamato per questo, ha chiamato per il quiz. Volevo dire appunto che non riusciremo ad affrontare la questione uomo-donna adesso, anche perché c'è Carlo in linea che sta aspettando. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Come va? Tutto bene lì a Pavia? Buongiorno. Tutto a posto? Tutto bene, c'è anche il sole oggi, quindi va bene. Sì, dopo il disastro della notte. Non ci lamentiamo. Allora, pronto, sto per leggere il testo. Come sempre ci sono tre possibili risposte e una sola però è quella corretta. Susanna Somali o Somali è un medico di Jakarta in Indonesia. In questo periodo è stata in prima linea contro il coronavirus, ma ha fatto parlare di sé per un altro motivo. Quale? Risposta numero 1. Susanna ha salvato più di 1500 gatti e cani randagi della sua città. Risposta numero 2. Ha mangiato un'intera torta nuziale in meno di 9 secondi. Risposta numero 3. Susanna ha realizzato un video virale nel quale canta una canzone heavy metal travestita da Giulio Andreotti. Un medico di Jakarta. Ma a me verrebbe da dire la numero 1. Ha salvato cani e gatti randagi. Ed è così, diciamo, abbiamo anche cercato, siccome ci teniamo molto alla lettura, poi alla lettura estiva, come prima ricordava Laura, è una buona occasione per portarsi dietro un libro, quindi un pochino abbiamo facilitato, perché le altre due risposte, insomma, soprattutto quella dove canta una canzone heavy metal travestita da Andreotti, è questa la risposta giusta. La dottoressa che a Jakarta ha salvato più di 1000 cani e gatti randagi, una donna di 55 anni che appunto vive a Jakarta. Sì, una gran passione per gli animali, evidentemente, anche oltre che per il salvataggio delle vite umane. Allora, Carlo, verrà ricontattato ovviamente dal nostro centralino, redazione, chiunque la contatteremo per il suo indirizzo, per la spedizione di questo volume che speriamo riceverà prima delle vacanze. Grazie, Carlo. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Buona giornata. E allora, quindi abbiamo avuto già il nostro primo ospite e non lo so, mi fa... Vogliamo ricordare abbiamo, i numeri? Sai che abbiamo già, non ricordiamoli, perché abbiamo già un altro concorrente, mi fanno cenno dalla regia, solo che io tardo a vedere, eccola, è arrivata il nome. Federica, buongiorno, da Padova. Buongiorno a voi, buongiorno. Oggi proprio raffica buongiorno. Di quiz. Buongiorno. Allora, pronta Federica? Sì? Vado? Erika è il nome di un androide giapponese dotato di un'intelligenza artificiale avanzatissima che sta per entrare nella storia. Per quale motivo? Risposta numero 1. Erika sarà il primo robot protagonista di un film. Saprà comprendere e interpretare le emozioni umane. Erika sarà il primo robot jihadista. Ragionerà come un fondamentalista religioso per prevenire futuri attacchi terroristici. Risposta numero 3. Erika sarà il primo robot ad avere la facoltà di scegliere il proprio orientamento sessuale all'età di 17 anni. Ok. Anche qui diciamo... Quindi signora, che cosa dice? Erika è il primo robot che parteciperà a un film come protagonista, è il primo robot jihadista che ragionerà come un fondamentalista, oppure potrà scegliere il proprio orientamento sessuale? Io direi che parteciperà a un film. E il nostro notaio le dà ragione. Per la prima volta un robot dotato di intelligenza è protagonista di un film. Tra l'altro è proprio un robot che sarà sul set, non è che sarà disegnato dopo in post-produzione. Permettimi, Laura, di spezzare una lancia per la categoria degli attori della quale faccio parte, che qualcuno, qualche attore potrebbe anche pensare che non sia un'ottima notizia, perché è certamente per il produttore è più comodo avere un attore che ti fa il film e a fine riprese lo metti in una scatola. Beh, questo hai ragione a sottolinearlo. Direi che ma fa parte del siamo robot molto curiosi, secondo te? Di vedere questa attrice. Sì, esatto, ma avrà un'area, sì, va bene androide giapponese, però insomma, si vedrà che è una macchina o no? Chissà, io sono un po' curiosa di vederla da questo punto. Siamo tutti curiosi in attesa. Cioè, vedere cammello, insomma. Va bene, abbiamo la viabilità, torniamo tra pochissimo, parliamo di un argomento molto serio che sono le cure per il contrasto, diciamo, all'epidemia di coronavirus, perché insomma Trump ha fatto incetta di medicinali, a noi questa cosa un bel po' preoccupa, non so voi, non so te Carlo, ma ne parleremo con un'esperta tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry. L'amministrazione americana si è assicurata quasi l'intera produzione trimestrale del farmaco Remdesivir prodotto dalla società statunitense Gilead Sciences. Questo antivirale era stato studiato inizialmente contro Ebola, ma il suo uso è stato approvato dall'autorità americana per il trattamento contro la Covid-19, perché come dice la Crusca è una malattia, la Covid-19. La settimana scorsa è stato approvato anche dall'Agenzia Europea del Farmaco e quindi adesso si aspetta la ratifica della Commissione Europea, ma insomma è diventato un farmaco ricercatissimo e noi ci siamo fatti un bel po' di domande su questa questione, ma insomma se uno stato fa incetta di tutto, qui come siamo messi? Dov'è finito tutta quella bontà che abbiamo respirato nelle settimane scorse? Viviana Galli, buongiorno. Buongiorno. Da Bruxelles, la coordinatrice della European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines, insomma si occupa di medicinali, fa lobby su questa, no, su questo particolare comparto. Ovviamente la questione è alla vostra massima attenzione, direi. Sì, assolutamente. Giusto per le notizie dell'ultime ore, ieri la commissione in realtà ha approvato l'utilizzo condizionale di Remdesivir anche in Europa. Quindi anche lì tutti si buttano su questo farmaco. Esatto. E anche l'Unione Europea. Quindi adesso inizia la guerra, se la vogliamo anche noi. Esatto, cioè è stata una procedura accelerata velocissima, che è durata una settimana, mentre di solito l'approvazione, cioè tra la richiesta d'autorizzazione e l'approvazione della Commissione Europea di solito ci vogliono 2 mesi. Quindi anche questo è un segnale della corsa verso i medicinali e anche verso i vaccini, se vogliamo parlare di in un ambito più generale in relazione al Covid. Ho visto che anche la Commissione, cioè l'Unione Europea è in trattative con questa Gilead Science, no? Quindi per avere delle dosi per l'Unione Europea. Ma intanto è davvero l'unico farmaco sul mercato contro la Covid-19 oppure è uno dei possibili? No? Ci sarebbero alternative? Allora, il primo farmaco che viene approvato sia dall'FDA, che è l'agenzia dei medicinali americana, sia dall'Agenzia dei medicinali europea. Però ci sono altre medicine, altri trattamenti che sono adesso in sperimentazione che anche hanno dato dei buoni risultati, come per esempio uno steroide che anche non è coperto da brevetti, non è più coperto da brevetti. Inoltre c'è anche da dire che il medicinale Remdesivir della Gilead diciamo non siamo sicuri al 100% né della sua sicurezza né della sua efficacia e dobbiamo pensare che non è un medicinale salvavita, quindi non cura la malattia ma semplicemente riduce alcuni dei sintomi, aiuta con alcuni dei sintomi in pazienti soprattutto gravi, quindi quello che è stato visto nelle sperimentazioni è che i pazienti riescono ad uscire prima dall'ospedale e quindi diciamo a limitare la gravità della malattia, quindi non pensiamo che è un trattamento in realtà salvavita, è un trattamento miracoloso e quindi come ho detto ci sono anche altri medicinali che sono attualmente in sperimentazione e che quindi vengono già utilizzati in alcuni pazienti che anche potrebbero essere un'alternativa e anche un'alternativa più economica. Dunque, questo sì, perché poi tra l'altro tutta questa richiesta farà salire il prezzo oppure c'è un tetto a questo Remdesivir? Allora, Gilead ha già dichiarato diciamo, il prezzo che ha concordato con gli Stati Uniti. In realtà con gli Stati Uniti ha concordato 2 prezzi, un prezzo per i pazienti che vengono coperti dalla sanità pubblica americana, che in realtà è un numero molto limitato, perché negli Stati sono Uniti in 12 credo esatto, in realtà molti pazienti negli Stati Uniti hanno delle assicurazioni private o non hanno assicurazione, quindi ci sono 2 prezzi, uno diciamo che hanno concordato con gli Stati Uniti come amministrazione e uno invece che hanno concordato per le persone che sono coperte da assicurazione privata e Gilead ha annunciato che il prezzo che è stato dato all'amministrazione americana sarà anche il prezzo che loro proporranno a tutti i paesi ricchi, diciamo, quindi anche ai paesi europei. E questo in realtà è un prezzo non molto economico, si parla di sui 2.000. Si sono fatti fregare gli americani per tutti noi. Sempre. $2.500 per ciclo di trattamento breve. Che dura 5-6 giorni, ma non è detto che tutti i pazienti abbiano bisogno del trattamento breve, ci sono alcuni pazienti che avranno bisogno per esempio di 10 giorni di trattamento, quindi il prezzo anche sale. E giusto per dare un'indicazione, ci sono stati studi, per esempio nell'Università di Liverpool, che ha stimato che il prezzo di produzione e distribuzione di questo medicinale in realtà è a $10 a dose e anche un istituto che si occupa di valutazioni cliniche ed economiche ha in realtà stimato che il prezzo equo per questo medicinale, quindi anche che dà dei guadagni all'azienda farmaceutica, sarebbe di $310 a trattamento, quindi si può capire che tra $310 e $2500 c'è un po' di, c'è una leggera differenza. Decisamente. Senta, ma le volevo chiedere una cosa. Ma io volevo capire come funziona questa questione dell'approvvigionamento dei medicinali, nel senso che da un lato uno può dire è normale che Trump, diciamo l'amministrazione Trump, richieda 500.000 dosi, sono un paese di 300 milioni di persone, è abbastanza normale. Diverso sarebbe se arriva Trump e dice le voglio tutte a prescindere da quante sono, a prescindere da quante me ne servono. Siccome poi non possiamo dimenticare che siamo anche in un paese in cui sono molti anni, in cui più o meno un terzo dei cittadini pensa che lo slogan giusto sia prima gli italiani, beh, questo terzo capirà bene che l'indirizzo quindi è normale che gli americani dicano prima gli americani, quindi è ovvio che più si continua a dire prima gli italiani, più il punto d'arrivo sarà esattamente questo, cioè ognuno farà per sé. Ma io mi chiedo come funziona, che chi è che può regolare, cioè si può dire agli americani no, voi ne comprate solo 22.000 perché ce n'è 1.000 per il Congo belga, 1.000 per l'Italia, 700 per la Svizzera, come funziona? Ma in realtà dipende dalle negoziazioni fatte con l'industria farmaceutica direttamente, quindi l'amministrazione americana, diciamo, è andata per prima a concludere questi contratti con Gilead. Accordi. Questi accordi, sì, esatto. Quindi sarebbe anche un po' la responsabilità anche dell'industria farmaceutica, che conosce le sue capacità di produzione, di dire ok, all'amministrazione americana per i primi 3 mesi possiamo dare questa quantità, perché siamo anche in contrattazione con l'Unione Europea e con diversi paesi membri dell'Unione Europea, perché le contrattazioni con Gilead comunque sono iniziate già qualche mese fa, perché c'era stato già un annuncio della possibilità che questa medicina sarebbe stata una delle medicine più promettenti. Comunque senza molti però non dati, mi sembra facile sulla... non mi sembra facile organizzarla, nel senso che loro vendono un medicinale, arriva, ne hanno 150.000, arriva qualcuno, le vuole tutte e gliele vende, dire no aspetti perché magari, e poi come si dividono, cioè come, quante scorte si tengono, dicendo sicuramente li vorrà anche l'Afghanistan. Allora, per i paesi, mi scusi la domanda che è un po' stupida. No, non è assolutamente stupida. Per i paesi a basso e medio reddito, in realtà Gilead, quindi l'azienda farmaceutica, ha venduto delle licenze a delle aziende farmaceutiche che producono dei generici, le ha vendute ad una decina di aziende, e queste aziende possono produrre il medicinale a basso costo per un centinaio di paesi a basso e medio reddito. Ah, questa già mi sembra una buona notizia. Sì, questa è una buona notizia. Ci sono anche lì dei piccoli ostacoli a volte per la distribuzione in tutti questi paesi, anche perché la produzione di un medicinale comunque prende del tempo, quindi non si possono produrre milioni di dosi al giorno, come forse a un certo punto se ne avrà bisogno, e quindi diciamo una questione sono le licenze verso le aziende che producono generici che possono distribuire nei paesi a basso medio reddito. Le negoziazioni direttamente con Gilead di solito vengono fatte invece da istituzioni o governi direttamente. E però comunque quello che volevo sottolineare anche è che le sperimentazioni di questo farmaco sono avvenute anche in Europa, quindi c'è stato anche un contributo da parte dei governi europei, ma anche dei cittadini europei che si sono prestati alla sperimentazione, e quindi ci sarebbe anche un obbligo un po' morale da parte dell'industria farmaceutica e Gilead in particolare a mettere da parte un determinato numero di dosi anche per i paesi che si sono prestati alla sperimentazione di questo farmaco. Viviana, speriamo che sentano questo obbligo. Allora, noi dobbiamo interromperci per GR24, la ringraziamo per questi aggiornamenti, come sempre. Buon lavoro, buon proseguimento. Viviana Galli è stata con noi appunto da Bruxelles. GR24, torniamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sono le 9:10 e torniamo in studio insieme. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti, come va? Siamo sempre qui? Buongiorno, tutto bene. Hai fatto in tempo a prendere il caffè? Sì, certo. Bravo. Io no, perché sai che adesso le macchinette ce le hanno messe lontane, porca miseria, non è proprio comodo andare giù e su e su e giù per le scale. Quindi il caffè è rinviato, ed è rinviato anche all'ora di pranzo, magari un bicchierino di vino, perché non è opportuno a quest'ora. Però di vini e vigneti eroici e storici vogliamo parlare in questo momento. Perché? Perché cosa è successo nel corso di questa settimana? Poi ci facciamo spiegare meglio magari da un addetto ai lavori, se riusciamo a farlo rispondere al telefono. È successo in settimana che un patrimonio produttivo ed ambientale da tutelare, valorizzare e sostenere è stato certificato da un decreto sostanzialmente, che ha stabilito che i vigneti eroici e storici del nostro paese sono da preservare, no? Il decreto è stato firmato dalla ministra Bellanova con i ministri Franceschini e Costa, e quindi vi ho detto tutto: c'è la cultura, c'è l'ambiente, c'è l'agricoltura, in modo da tutelare appunto queste aree. Che cosa sono i vigneti storici e i vigneti eroici? Allora, storici sono quelli che sorgono in una determinata superficie, particella, da prima del 1960. Invece quelli eroici sono quelli che ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico o sono stati realizzati in condizioni orografiche molto particolari, dove non si può arrivare con i macchinari, e quindi bisogna lavorare manualmente ancora adesso, a differenza di quanto magari non si possa fare in aree geografiche diverse, più comode e anche più diffuse nel nostro paese. Tu hai esperienze di vigneti, Carlo? O hai fatto la vendemmia magari da studente? Io sì, qualcosina sì. Io no, quindi voglio assolutamente sentire la tua esperienza. La mia esperienza è molto limitata, è stato molto divertente, molto bello, ma è uno di quei classici lavoretti che si fanno da studente, non ho poi dopo dato seguito, ma comunque posso dire di averlo fatto in un vigneto che oggigiorno sarebbe considerato eroico, perché comunque si trattava di bricchi dell'Oltrepò pavese, quindi roba un po' difficile da raggiungere e sicuramente roba che non si può fare. Mi piace molto questa definizione di vigneto eroico, se devo dire. Adesso sono anche molto curioso di sapere se da questa da questo decreto, diciamo, poi ne usciranno anche delle economie per sostenere. Ho letto che comunque l'idea è di creare un marchio nazionale, di modo che tutti i vini che provengono da vigneti storici o da vigneti eroici siano al di là della tutela, siano anche in qualche modo segnalati, di modo che se qualcuno ci tiene anche a far prosperare questo tipo di vigneti, perché Lo chiediamo a Corrado Fenu, consigliere delle CONAF, che è il Consiglio Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali, che è già in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, mentre la cercavamo al Buongiorno. Telefono, io ho anticipato un po' che cosa sono i vigneti storici ed eroici, quindi passiamo già alla domanda 2, nel senso, l'averli riconosciuti cambierà per loro qualcosa, darà qualche sostegno, qualche contributo? Beh, noi ci auspichiamo di sì, perché questa legge individua, sostiene e valorizza quei vigneti che rappresentano un patrimonio di straordinaria importanza dal punto di vista storico, ambientale, produttivo, culturale ed economico. Diciamo che i vigneti storici naturalmente devono avere determinate caratteristiche, eroici perché devono avere uno dei requisiti, come una pendenza del terreno superiore al 30%, oppure sorgere su delle altitudini superiori ai 500 metri sul livello del mare, o ancora devono essere localizzati su... La qualità del vino non modifica, diciamo, la scelta di un sito, nel senso che se uno ha un vigneto storico o eroico, ma fa un vino schifoso, comunque rimane un vigneto storico o eroico? Sì, anche se poi diciamo che... Lì è un problema economico poi dopo successivo. Esatto. esattamente. Diciamo che il fatto che questi vigneti sorgano su dei fazzoletti di terra, spesso impervi, e dove la mano dell'uomo ha determinato la qualità delle produzioni, è un fattore fondamentale. Pensate ai fazzoletti di terra prospicienti il mare dell'isola di Sant'Antioco, dove il Carignano, allevato ad alberello, riesce ancora oggi a superare la forza del vento di maestrale, che in queste zone è fortissimo. Quindi diciamo che devono avere delle caratteristiche che hanno fatto sì che magari dal punto di vista quantitativo non ci siano le rese di altre realtà, di altre zone produttive, ma dal punto di vista qualitativo molto spesso ci sono delle eccellenze che non si possono riconoscere in altri contesti produttivi. Consigliere Fenulat, la fermo un attimo e vorrei chiedere al nostro ospite, che è già in collegamento con noi, se questo tipo di vigneti, magari soprattutto questi eroici, possono essere una buona ambientazione per un romanzo, diciamo magari giallo, di quelli che scrive lui. Marco Malvaldi, buongiorno. Buongiorno, sì, potrebbe Massimo, essere assolutamente. Oppure Pellegrino Artusi, no? Potrebbero muoversi magari in questi contesti, un po' eroici, un po' storici. Assolutamente, per due motivi. Motivo numero uno è che, come diceva il vostro ospite, tenderei a dire che è abbastanza raro che questi vigneti producano vino schifoso o non di qualità, perché proprio il fatto che si sia continuato a fare questo vino, nonostante la situazione sia così impervia, così difficile da gestire, probabilmente è indice del fatto che viene, in quel dato appezzamento di terra, viene meglio il vino che non le patate oppure una villetta di familiare. Mi sembra giustissima questa precisazione. Siccome sono io che ho usato quella parola infelice, ci tengo. Ringrazio Marco Malvaldi in realtà per questa precisazione. Sono d'accordo. Uno dice: se è dal 60 che si fa, probabilmente si fa un vino molto buono. Oppure se devo mettermi che per raccoglierla ci metto 14 ore per ogni grappolo. Quindi sono molto d'accordo. E poi c'è un secondo aspetto che non è da sottovalutare, che è quello paesaggistico. Prima si parlava dei vigneti alberello del Carignano del Sulcis, io penso alle alberate campane, oppure penso al passito di Pantelleria o al Sciacchetrà Ligure. Cioè, al di là della qualità del vino, questi vigneti sottolineano in maniera incredibile quella che è la diversità orografica dell'Italia. Vedere questi vigneti in zone dove una persona sana di mente non avrebbe mai impiantato un vigneto è una vera e propria iniezione di diversità paesaggistica, e siccome l'Italia, diciamolo, fra le sue ricchezze ha proprio questa, proprio la sua incredibile variazione di qualità del paesaggio, preservare questi vigneti non significa solo appunto preservare il vino, ma significa anche proprio preservare il vigneto, preservare queste costruzioni particolarissime, come per esempio le alberate, cioè vigneti che si stendono da albero a albero. Quindi tutte queste cose, tutto questo valore aggiunto, sia da un punto di vista paesaggistico che economico, mi fa pensare che sì, un bel giallo ambientato fra i vigneti eroici ci sta. Attirerebbe molti, insomma. Allora, adesso ci ritorniamo, devo dare la viabilità che nulla a che vedere con i vigneti storici, ma torniamo tra un istante. Si può fare logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino vi presenta si può fare cronache da un paese migliore. E stiamo parlando con Marco Malvaldi e Corrado Fenu, e a lei, consigliere Fenu dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, vorrei chiedere: può più forse un romanzo di Marco Malvaldi per i vigneti storici o un decreto? Cosa dice? Forse la letteratura a volte può aiutare di più, no? Nella memoria. Può aiutare, possono aiutare però in questo anche gli agronomi, che devono dare il loro contributo per la tutela di questi paesaggi. Diciamo che oggi la vera agricoltura sostenibile, che è tanto di moda, è l'unica presente in questi territori, a tal punto che la produzione si integra con la manutenzione del territorio e si identifica con la natura dei luoghi stessi. Quindi diciamo che noi abbiamo una grossa responsabilità sia in termini professionali sia in termini di, come dire, di produzione di libri, di informazioni su queste zone. Sì, prego. No, dicevo, mi ricollego a una frase di Veronelli che diceva, definiva i viticoltori di queste zone come gli angeli mati, cioè quelli più caparbi, quelli sempre meno numerosi che però si ostinavano a voler far vino nelle isolette, nelle valli della Val d'Aosta piuttosto che... Come li chiamava, gli angeli? Gli angeli matti. Matti. Noi speriamo che oggi ci siano anche gli angeli di ritorno, perché comunque fare viticoltura significa anche cercare di avere un ricambio generazionale che può determinare un nuovo impulso, visto anche il decreto e visto probabilmente anche tutti i finanziamenti che verranno indirizzati verso questi vigneti storici ed eroici. E quindi lei dice riattrarre un po' di attenzione, di persone, di cura su questi territori. Assolutamente sì, anche se diciamo che non è mai venuta meno. Però ecco, può essere anche un volano per il rilancio turistico dell'Italia, nel senso che l'enoturismo è comunque quella fetta di mercato turistico che richiama tanti turisti esteri e quindi potrebbe essere anche un, come dire, grazie anche a questo decreto potrebbe essere un rilancio di un settore, di un'economia che in questo momento si trova in forte crisi. Certo. Malvaldi, per quanto lei abbia scritto, noi sappiamo, insomma, tanto compare nei suoi romanzi, però lei ha una vera passione, direi, proprio per queste curiosità del nostro territorio. Non è solo perché mi serve questa materia per scriverne, insomma, è proprio personale, direi. Nasce sempre dal mi serve per scriverne, ma poi in realtà quando uno si trova a che fare, io ho cominciato a occuparmi di vino, diciamo, da un punto di vista squisitamente edonistico 20 anni fa, poi ho continuato anche su altri settori. Il fatto è che il vino è uno dei mezzi migliori che ha l'uomo per unire il territorio, la cultura e la chimica, che è la mia materia. Ma c'è ancora, il vino il Malvaldi? Che abbiamo letto un articolo del 2012, il Malvaldi, questo vino nel Trentino. No. Lo ignoravo assolutamente. Ah, questa è una notizia che mi dà. Allora poi gliela giriamo noi, va subito. Andrò subito a cercarlo, assolutamente. Il fatto è che, ecco, una delle cose meravigliose del vino è che richiede tempo. Prima Fenu parlava di investitori. Ci sono vari casi. Uno fu clamoroso, quello della famiglia Antinori e della Whitbread negli anni '80, che cercarono questo gruppo statunitense di si misero in società con gli Antinori per fare vino. Fu un matrimonio che durò 8 anni e fu clamorosamente sbagliato, tanto che poi in questo momento l'azienda Antinori è guidata dalle 3 figlie di Piero Antinori, da Albiera, Allegra, e perché queste persone non avevano capito che ci vuole tempo per fare il vino, che c'è un lasso di tempo che è fisiologicamente non scavalcabile dal momento in cui progetti un vino, progetti curi un vigneto al momento in cui vedrai. Che poi vedrai è l'errore che fanno tanti che si decidono, no, per trasferirsi in campagna e senza tener conto che ci sono dei tempi da rispettare, che non è che tu ti trasferisci adesso e domani c'è il risultato. Ci sono dei tempi da rispettare, ci sono delle competenze che variano da luogo a luogo. Anche in questo bisogna assolutamente dare ragione a Sfenu. La competenza dell'agronomo molto spesso è specifica per quel determinato territorio e si unisce alla competenza generale, chimica, agronomica, fisica, che una persona ha nel trattare in generale le piante. Non ci si improvvisa assolutamente agronomi. Hai ragione, c'è un gran numero di persone che appunto si trasferisce in campagna convinto di poter andare a cogliere ranuncoli all'aria aperta, invece scopre che ci vuole, oltre alla passione, una competenza non da ridere, e bisogna che gli elementi ti assistano veramente, perché qui diciamo, chi coltiva la terra di tragedie Covid ne vive una ogni 5-10 anni, Sì, tra l'altro stile. Ultimamente con il cambiamento climatico ne vive una all'anno, perché ogni anno è diverso dal precedente, non c'è una media, diciamo, di solito la stagione è così. Ecco, noi abbiamo parlato la settimana scorsa ad esempio con un coltivatore di mais e ogni anno ce n'è una diversa, piove troppo, piove poco, c'è la muffa, c'è questo, c'è l'altro, c'è il parassita, c'è acuite dal cambiamento climatico. Assolutamente. Però appunto il fatto è che come tutte le cose, anche diciamo come tutte le cose difficili, se fatte bene si tramutano in cose di grande valore. L'Italia in questo momento ha un grandissimo valore proprio dalla sua diversità orografica. Ogni zona geografica ha i suoi prodotti e appunto a differenza delle patate, delle carote, dei carciofi o di altre specie, il vino richiede tempo, richiede competenza, ma può attirare investitori, può attirare capitali, può attirare nuove tecnologie. Si tratta di integrare tutte queste cose in un tessuto che funzioni. Non è per niente facile, ma è una delle cose che dovremmo fare. Ecco, mi viene da dire veramente si può fare, anzi aggiungerei si dovrebbe fare, perché è una di quelle cose nelle quali gli italiani eccellono. Se noi dobbiamo fare cose ordinarie o burocratiche, di solito non diamo proprio il meglio di noi stessi, anche se invece nelle situazioni eccezionali, quando si presenta la sfida difficile, di solito, diciamo, quando il gioco si fa duro, di solito l'italiano capisce che è il momento di giocare. Quindi credo che sia uno di quei settori nei quali varrebbe veramente la pena di investire a tutti i livelli, quindi sia a livello enologico che a livello narrativo, come dicevi tu poc'anzi, che a livello ambientale. Questi vigneti sono autentiche ricchezze che vanno preservate non per bontà, ma proprio con vero e proprio spirito imprenditoriale. Però già si investe tanto, voglio dire, non è che si può dire che sia una parte marginale dell'economia italiana il vino, né si può dire che la presenza in letteratura o in generale nella produzione dei libri legati al food, al cibo, al vino, direi che c'è quasi una sovrapproduzione, direi che si parla più di cibo, più di vino che di leopardi, questo è sicuro. Questo è vero, però secondo me quello che bisogna fare è investire non tanto nella quantità quanto nella qualità. La cosa bellissima del vino è la sua diversità e in questo momento secondo me le grandi produzioni stanno andando molto sull'omologazione. Io vengo in questo momento, io vivo a Donoratico, che è vicino a Bolgheri, e beh, diciamo che ci sono molti produttori nel bolgherese che hanno rinunciato a quelli che erano i vitigni autentici autoctoni per piantare Cabernet Sauvignon e Merlot come se non ci fosse un domani. Il risultato è che molti vini di Bolgheri, non parlo dei grandissimi Bolgheri, ma molti vini di Bolgheri si assomigliano tutti, e questo per il vino non va assolutamente bene. Io in una bottiglia di vino cerco la particolarità, cerco l'unicità, cerco la sensazione. Se devo stappare una bottiglia di vino sapendo già quello che ci troverò, è come leggere un giallo sapendo chi è l'assassino. Già, insomma, il finale. Non va tanto bene. No. Corrado Fenu, cosa ne pensa appunto di questa un po' omologazione di cui si parlava? Insomma, bisogna tener conto invece delle diversità e contare sulle diversità. Certo, la biodiversità è sicuramente un elemento fondamentale che contraddistingue le nostre produzioni nazionali. Biodiversità significa associare un vino, un vigneto, una produzione a un determinato territorio. È fondamentale mantenerle, tutelarle, valorizzarle. Posso però dire una cosa molto importante, perché ieri, prima di questa trasmissione, a proposito di tempo, ho parlato con un collega agronomo che produce vino, il quale mi diceva: io in condizioni normali per un ettaro di vigneto impiego circa 100 ore di lavoro l'anno. Sapete quanto ci vuole per coltivare, per seguire un vigneto in queste zone cosiddette storiche o euriche? Si parla di 800 ore, cioè significa che l'impegno molto spesso di questi piccoli produttori è fondamentale ed è anche molto spesso non ha un riscontro in termini di prezzo del prodotto finale. Quindi anche questo impegno è fondamentale per definire, per valorizzare, per dare impulso in termini economici o con dei contributi, dei sostegni a queste produzioni caratteristiche. Io la ringrazio molto, Corrado Fenu, ricordo consigliere del CONAF, come ricordo e ringrazio Marco Malvaldi, che è uno scrittore, che la settimana prossima, vero, sarà ospite di Alessandra Tedesco nel Cacciatore di Libri, quindi lì si parla del Borghese Pellegrino. Noi abbiamo un po' approfittato e abusato delle sue competenze in questo momento, ma insomma, comunque, per parlare del Borghese Pellegrino, l'appuntamento è per la settimana prossima con il Cacciatore di Libri. Grazie molto per essere stato con noi, a entrambi buon proseguimento. Noi abbiamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci pronti per un nuovo quiz, un nuovo concorrente. Lui si chiama Claudio, è chiamato da Gorizia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Allora, noi per il quiz, che come sa, no, abbiamo un'enunciazione, tre possibili. Cos'è che c'è sotto? Un cane? Il le vento? Le macchine che passano. Ah, miseria, che macchine avete a Gorizia? Siete sulla Formula 1, cioè. Allora, dicevo, c'è il testo e tre possibili risposte. Attenzione, andiamo a Narni. Andiamo a Narni, in provincia di Terni. Potrebbe essere la prima città ad avere una via intitolata ad un robot. Se la petizione è lanciata da alcuni cittadini avrà successo, quale via potremo vedere? Risposta numero 1, via Gig Robot d'acciaio, dedicata all'eroe dei cartoni animati giapponesi. Via iCube, in onore del più famoso robot italiano, si dice così? Risposta numero 3, via R2D2, come il robottino di Star Wars. Allora, io direi... Allora, come si scrive la seconda, scusi? Aha, iCube, in onore del più famoso robot italiano, oppure via iCube, non so come si legge, io dico confesso la mia ignoranza. Io dico quella. Lei dice la 2, quindi, il più famoso robot italiano. Sentiamo il notaio. E invece era via Gig Robot d'acciaio, la più semplice, se vogliamo, dedicata all'eroe dei cartoni animati giapponesi. L'iniziativa del Dipartimento Europeo, tutela androidi per omaggiare il personaggio di manga e serie TV giapponesi. L'assessore alla cultura del comune Umbro, la nostra città, ha una tradizione nel campo. Valuteremo la proposta. Claudio, mi dispiace, però buona giornata. Saluto, lo stesso. Grazie. Dai, buon sabato, anche, grazie. Grazie. Grazie, grazie. You don't have my number, but we don't need each other now. We don't need the city, the creed or the culture now. Di cosa parliamo ora? Parliamo di Italy of Tomorrow, che è una piattaforma digitale per aggregare persone e aziende con l'obiettivo di trovare soluzioni per affrontare la crisi economica e sociale causata dalla Covid-19, che attualmente coinvolge molteplici settori. Ma come funziona in pratica e qual è il coinvolgimento in questa vicenda della fondazione Garage Erasmus, che, come vi fa capire il nome, comprende gli studenti, gli ex studenti dell'Erasmus? Beh, come funziona il tutto lo vogliamo chiedere ad Alessio Rosato, che è co-founder di Italy of Tomorrow. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, prima domanda, buongiorno. Io so che poi qui si arriva all'hackathon e le dico già si prepari a spiegarci che cos'è un hackathon. Quindi facciamo prima il cappello Italy of Tomorrow e cerchiamo di capire cos'è. E poi ci dica una volta per tutte cos'è questo hackathon. Subito, subito. Allora, prima di tutto buongiorno e grazie per averci coinvolto. Ecco, Italy of Tomorrow appunto nasce un mesetto e mezzo fa da un post su Facebook, una serie di vecchi amici, colleghi universitari, ora tutti professionisti, abbiamo avuto quest'idea di lanciare appunto questo hackathon in Italia, forte di esperienze fatte da alcuni membri del team, compreso me, in altri paesi, perché molti componenti del team sono appunto all'estero. Cos'è un hackathon? Immaginiamocelo come una tavola rotonda, diciamo una sala piena di tavoli rotondi, e intorno a questi tavoli persone di know-how e abilità diverse che insieme cercano delle soluzioni a delle sfide precise e prestabilite. Gli hackathon avvengono anche in forma fisica. Ovviamente noi faremo tutto in forma online, per ovvie ragioni, diciamo così. E quindi i tavoli rotondi saranno appunto dei workspace su piattaforme tecnologiche che permettono questo genere di iniziative. Quindi saranno piattaforme rotonde, diciamo così. Le piattaforme rotonde, sì. Che in parte stiamo creando ad hoc, in parte già esistono, e in parallelo c'è tutta una serie di palinsesto, tutta una serie di eventi live, ospiti da parte. Quindi c'è un po' di competizione che fa parte dell'hackathon e anche un po' di divertimento, diciamo, se ci sono, o comunque sì, di approfondimenti, diciamo, degli spazi che non sono competitivi, ecco. Esatto, cioè la vera competizione è appunto trovare delle soluzioni a delle problematiche specifiche di carattere socio-economico. Ci sono due lab, uno a carattere più economico, uno a carattere sociale. All'interno ci sono delle sfide che abbiamo chiesto proprio ai nostri partner di proporre, partner che sono aziende, aggregatori di aziende, istituzioni, e l'obiettivo è proprio quello di utilizzare la scusa del fatto che in 48 ore, diciamo, la creatività è stimolata ad alti livelli, proprio per poter far venire fuori degli spunti che si avvicinano un po' di più a quella che poi sarà la soluzione, sostanzialmente, al problema, alla sfida. Ma io vorrei capire, mi sembra una cosa bellissima il fatto di mettere delle teste insieme a pensare e a trovare delle soluzioni. Mi chiedo quante persone parteciperanno e soprattutto con quali competenze, cioè come ci si fa a iscrivere, se bisogna avere delle competenze e come funziona il confronto, perché detto è molto bello, poi bisogna capire come si fa a discutere in tanti contemporaneamente, e appunto le competenze anche per capire se ci saranno molti terrapiattisti e persone che credono alle scie chimiche o no. Giustissima osservazione. Allora, qui parliamo ovviamente, il numero degli iscritti lo sapremo fino al, diciamo, al giorno dell'hackathon. Ovviamente questo genere di eventi fatti in così poco tempo, il boost, diciamo, di iscritti è sempre comunque negli ultimi 10 giorni, lo stiamo vedendo. Comunque nell'ordine di qualche centinaio, se non arrivare al migliaio di persone. Tantissimi. Prerequisiti non ce ne sono, nel senso che è aperto a tutti, chiunque può dare il suo contributo, il suo know-how, perché è importante, che la cosa bella di questo evento è che mettono insieme persone che veramente vengono da cose completamente opposte, chi si occupa di grafica piuttosto che chi si occupa di vendita o di business planning o di medicina. Ma questo può anche essere un punto a favore, però a questo punto diventa molto importante capire come funziona il confronto, perché come sappiamo, poi se no magari ci sono persone che monopolizzano la discussione su temi, diciamo, definiamoli marginali. Esatto, infatti una volta scelta la sfida, quindi la categoria alla quale si vuole trovare una soluzione, all'interno della piattaforma ci saranno anche tutta una serie di mentors, persone esperte in determinati settori, che guideranno, diciamo, un po' tutta la discussione, specialmente nella fase di brainstorming iniziale, dove ovviamente lì si rischia, no, un po' di perdersi. In quella fase lì vanno tirati subito giù i punti principali e salienti di dove poi si vuole arrivare come progetto, e poi quello che si cerca di fare nelle 48 ore è arrivare ad una forma quanto più vicina alla soluzione finale. Io faccio un esempio: nell'hackathon al quale ho partecipato io in Svizzera, abbiamo avuto la possibilità in 48 ore di conoscerci prima di tutto con le persone, pensare ad una soluzione, pensare ad un progetto che in quel caso era un'app, e abbiamo creato proprio nelle 48 ore il mock-up dell'app, quindi sostanzialmente l'interfaccia grafica dell'app che facesse capire un po' il funzionamento. Quindi, diciamo, si esce un po' dal concetto dell'idea e si arriva a qualcosa in più. Questa è la cosa interessante, perché non è solo un'idea, ma è uno spunto già con un carattere più operativo. diciamo così. E all'interno della piattaforma ci sono tutta una serie di tool che permettono ovviamente di interagire in maniera molto più facile con delle lavagne elettroniche che danno la possibilità appunto di inserire il contesto, l'idea e di regolare un po' il brainstorming iniziale. Ma alla termine di questo brainstorming, diciamo, avrete dei progetti, delle idee, che cosa ne sarà di questi? Di solito si vince qualcosa, in questo caso si vince nel momento in cui, diciamo, si viene prescelti, ma resta una buona idea, quindi dopodiché si danno delle gambe, si riesce? Esatto, esatto. E questa è un'altra tematica molto, molto forte. Infatti noi l'approccio che abbiamo voluto utilizzare è proprio dare ai partner la possibilità di proporre le sfide, perché in altre iniziative sono a volte gli organizzatori che propongono le sfide. Perché abbiamo voluto dare voce ai partner? Perché poi sono proprio i partner poi che daranno un supporto ai team che diciamo in questo caso vinceranno, nel senso che il progetto che propongono è più attuabile rispetto ad altri, perché nelle 48 ore sono riusciti a fare un qualcosa in più, e con i partner si cercherà poi dopo di far passare questi progetti a uno stadio successivo di implementazione, diciamo così. Quindi diciamo non è un challenge da startup dove si vince un premio in denaro, dove poi poi ognuno fa quel che si vuole, ma poi abbiamo voluto dare qualcosa in più, quindi un processo di acceleratore, di incubatore, piuttosto che un percorso all'interno proprio delle aziende per vedere in che modo quella soluzione proposta può essere applicata anche utilizzando le risorse già in essere delle aziende. Quindi è un approccio un po' più diretto invece di lasciarlo come una passarella mediatica, diciamo così. Volevo chiederti una cosa, apprezzo l'ultima, molto l'idea, Carlo, dell'hackathon, proprio come? Dico l'ultima perché c'è la viabilità, non perché mi interessa. Il concetto di hackathon lo apprezzo moltissimo, trovo molto utile mettere insieme delle teste, come prima giustamente ricordava Laura. Noi abbiamo imparato la parola brainstorming e ci teniamo quella per il momento. Volevo chiederti, visto che tu hai esperienza di entrambe le forme, secondo te sono meglio gli hackathon dal vivo o da casa? Lo chiedo perché in realtà uno potrebbe subito dire ma no, è ovvio, dal vivo, però potrebbe essere che da casa magari qualcuno che non avrebbe il coraggio di venire lì fisicamente a parlare con magari delle persone che ne sanno tanto, invece da casa magari dicono la loro e trovano una soluzione. Esattamente, proprio questo è il punto, nel senso che si riesce ad approfittare un po' di più della creatività, perché non sei costretto a stare 48 ore in una sala con tutte le problematiche e le costrizioni che ne conseguono, ma puoi organizzarti il tempo come vuoi e appunto anche quelle cose di carattere, diciamo appunto caratteriale, no? Sfumature caratteriali che non riesci a poter mettere a frutto durante un evento live insieme ad altre persone, perché non riesci, invece online hai più flessibilità sei meno impacciato, diciamo, no? Se sei già portato a farlo. Ottimo, speriamo, esatto, che troviate un sacco di soluzioni. Noi siamo a disposizione, sì, per parlare poi delle soluzioni. Certo, per dare migliorate un po' di gambe anche noi a queste soluzioni troverete. Per quelle che sono si può fare, ovviamente. Beh sì, certo, ma questo è l'obiettivo loro, non è che vogliono disfare, no? Quindi ci auguriamo di sentirvi con buone e bellissime idee da portare avanti. Grazie Alessio Rosato. Volevo solo dire che per le iscrizioni basta andare sul sito www.italiotomorrow.com e premere partecipa, inserire i propri dati e partecipare all'hackathon. Benissimo, benissimo. Grazie. Allora, alla prossima. C'è ancora qualche giorno per farlo, perché poi si fa 10, 11, 12 di luglio, quindi avanti così. C'è GR, no, non c'è GR, c'è la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci con la classifica delle buone notizie della settimana. Cominciamo dalla postazione numero 5, dove in verità più che una buona notizia mettiamo un bel resoconto di una testata che si chiama Resto al Sud, che ha messo in evidenza il bel lavoro che è stato fatto a Foggia al centro polivalente di Parco San Felice, che è passato dall'essere un'area in cui si spacciava a un'area presidio della legalità. Adesso si chiama Parco Città, e là si gestisce davvero di tutto: attività laboratoriali, formazione, convegni, incontri. C'è un anfiteatro esterno, apprendiamo, che accoglie circa 200 persone per attività teatrali, musicali, del tempo libero, ed è anche un'area attrezzata, c'è anche un'area attrezzata per il fitness. Tutto questo è partito, questo rinnovamento e riqualificazione, nel novembre del 2016, e adesso la testata, appunto, Resta al Sud, ci fa un bel resoconto e ci fa scoprire quanto si può davvero fare ed è stato fatto a Foggia. Al quarto posto il Belgio, nello specifico proprio Re Filippo, chiede scusa per le ferite coloniali in Congo. In occasione del 60° anniversario dell'indipendenza ha scritto una lettera che così inizia: esprimo il mio più profondo rammarico per gli atti di violenza e le sofferenze inflitte al Congo belga. Così ha scritto Re Filippo in questa lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Democratica del Congo. E a coronamento di questo si può fare, dell'accettazione anche di questo si può fare, il governo di Kinshasa risponde: le parole del re sono balsamo per i nostri cuori. Al terzo posto il Messico dice stop al glifosato, oltre la produttività c'è la salute umana e quella dell'ambiente, dice il governo. Vieterà totalmente l'uso del glifosato negli erbicidi nel 2024 il Messico, questo a causa del suo impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Alla luce delle prove scientifiche della tossicità del glifosato che dimostrano gli impatti sulla salute umana e dell'ambiente, il Segretariato per l'Ambiente e le Risorse Naturali del Messico ha adottato questa importante misura di ridurre gradualmente l'uso di questa sostanza chimica fino a raggiungere il divieto totale nel 2024, decisione resa nota appunto in settimana. Al secondo posto TIM, che regala la DSL a 400.000 famiglie, soprattutto di anziani, ovvero porterà la connessione web, la DSL, quindi quella a velocità moderata, a persone che oggi hanno solo la telefonia fissa, e glielo regalerà perché continueranno a pagare lo stesso abbonamento mensile di 18,6 euro e poi dovranno semplicemente acquistarsi un modem, che questo è a carico loro. In Italia ci sono circa 400.000 famiglie, in genere di persone anziane, che hanno solo il telefono fisso tradizionale, la vecchia cornetta e niente più, sono abbonate a TIM e alla sua offerta voce. A queste famiglie ora verrà regalata la DSL, una forma di connessione internet a velocità moderata che, soprattutto in questi tempi di lockdown, ci sembra una ottima notizia. E al primo posto una notizia simbolica, cioè la riapertura della Fenice di Venezia con un concerto per gli eroi contro la Covid. Riapre al pubblico infatti il 5 luglio la Fenice di Venezia con un concerto degli Ottoni, dell'orchestra e coro del teatro, dedicato alla città, ai veneziani, al personale medico sanitario, e saranno i fiati della Fanfara for Common Men di Aaron Copland, diretta da Claudio Marino Moretti, ad inaugurare la serata. Un brano scelto per i suoi significati simbolici, nacque infatti in piena Seconda Guerra Mondiale come composizione per ottoni e percussioni in onore di quell'uomo comune, una sorta di milite ignoto di fronte al quale l'artista non può che inchinarsi. E in questo caso il milite ignoto ovviamente è la vittima della Covid. Infine vi vogliamo segnalare anche un'altra buona e bella notizia della settimana, che è questa lunga biciclettata che ha fatto un gruppo di amici da Comiso a Milano perché Marco Di Stefano, ce lo dica lei che è l'organizzatore, uno degli animatori del gruppo. Come mai questa lunga biciclettata? Buongiorno a tutti e grazie per dare voce alla nostra iniziativa sulla vostra emittente. E un viaggio, come si chiama il vostro programma, si può fare e noi l'abbiamo fatto, 1500 km in bicicletta da Comiso come ultima tappa a Milano, per dire grazie a tutto il personale sanitario d'Italia che si è impegnato in questa battaglia per il Covid-19. Siamo partiti da Comiso sabato scorso, esattamente una settimana fa. Come prima tappa abbiamo ringraziato l'ospedale maggiore di Modica, presidio Covid. Abbiamo proseguito ed attraversato tutto lo stivale da sud a nord, fermandoci in diversi ospedali Covid per ringraziare il personale sanitario. Infatti io vi ho visto comparire sulla stampa di Mezza Italia in questo periodo. Sì, sì. Diciamo che siamo andati oltre le aspettative per quello che ci aspettavamo e quindi insomma è stato un successo, ma abbiamo vissuto veramente un viaggio magico, soprattutto quando siamo arrivati nella città di Mantova, dove siamo stati veramente accolti molto calorosamente, e lì abbiamo raggiunto, diciamo, l'apice emozionale del nostro viaggio e abbiamo avuto modo di conoscere persone speciali come il dottor De Donno e tutto il suo staff impegnati nella ricerca per la lotta contro il Covid con il plasma, con la cura al plasma. Ma voi avete fatto questo viaggio intitolandolo il dono dell'ospitalità, scusi se la faccio arrivare, sì, esatto. Esattamente, arriviamo al punto, il dono dell'ospitalità, perché da una mia idea, in quanto io sono un albergatore che ha un piccolo bed and breakfast a Comiso di solamente 4 stanze, durante il periodo di quarantena, essendo sempre collegato alle brutte notizie che arrivavano dalla televisione, ho pensato bene di poter regalare appena possibile dei weekend gratuiti al personale sanitario. Da questo ringrazio il mio sindaco Maria Rita Schembari, e a cui auguro una pronta convalescenza. Mi ha dato la possibilità e mi ha ascoltato per poter realizzare questo progetto. Di conseguenza ci siamo messi al lavoro, abbiamo recuperato dei fondi tramite delle istituzioni, anche dei privati, dove siamo riusciti a mettere su dei pacchetti, dei weekend gratuiti per circa 40 operatori sanitari che verranno in Sicilia in vacanza da noi, nella nostra terra, a partire dal 1° di marzo fino, come data ultima, il 31 dicembre del 2021. Abbiamo deciso questa data. Mi sembra una notizia veramente straordinaria, veramente. Anche il fatto che siate partiti da Comiso, che ricordo è il paese natale di Gesualdo Bufalino, e siccome abbiamo iniziato parlando del premio Strega e la Parrella, chiudiamo con Gesualdo Bufalino, che con Le Menzogne della Notte nell'88 vinse anche lui il premio Strega ed è un gigantesco scrittore siciliano. Allora noi siamo in conclusione, Marco Di Stefano, allora ancora tanti complimenti, ci saluti anche tutti i suoi compagni di viaggio. Io ringrazio Edoardo Lavezzari, Danilo Di Trani, Andrea Piana e da Laura Bettini, appuntamento a domani mattina alle 8:30. Carlo.